versione di Oscar. Di Oscar Giannino. 16:30 primi, 29 secondi dagli studi di Milano, in diretta Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. La versione di Oscar c'è in diretta o in podcast, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, per richieste di trasmissione, temi, critiche, domande, qualunque cosa io rispondo. E vi dice subito qual è l'argomento della trasmissione di oggi, per consentirvi eventualmente di telefonare 800 24 00 24, per gli sms, per chi non lo sapesse, il numero è 349 238 6666. Parliamo di Alitalia, tema ricorrente di anno in anno, torniamo sempre alle solite con le difficoltà economico-finanziarie e di piano industriale, di modello di compagnia. Sapete, immagino, avete visto sui giornali in queste ultime settimane delle difficoltà nuove di come l'azienda sta tentando di fronteggiarle, l'azienda che dal 2014 vede in una partecipazione di minoranza qualificata ma alla testa con la gestione Etihad. Dico minoranza qualificata perché, come vi ricorderemo, non può avere la maggioranza al 51%, perché altrimenti perderebbe i diritti come compagnia europea, quella sul mercato regolamentato europeo da lei controllata in Europa. E avete letto delle difficoltà, io ve ne aggiornerò brevemente, ma la domanda che vi faccio è: visto che nel 2008, ve lo ricordate, Berlusconi, il salvataggio, l'italianità, la cordata dei capitani coraggiosi, anche in quel caso i capitani coraggiosi erano altri ai tempi di Telecom, ma insomma un po' coincidevano, poi l'esborso che ha significato per lo Stato, la cassa integrazione, eccetera eccetera, poi gli italiani non ce la facevano da soli, arriva Etihad, ma ci risiamo. E la domanda che vi faccio è: da viaggiatori, che vi sembra l'Alitalia in questi ultimi anni? Quanto nel vostro portafoglio ha pesato ciò che nel mercato si è sviluppato, cioè Ryanair, le low cost? Immaginereste che per difendere l'italianità ancora una volta banche, grandi banche italiane, che sono tra l'altro, che hanno recentemente, qualche giorno fa, annunciato di riaprire le linee di credito come Unicredit Intesa, devono aiutarla? Oppure addirittura pensereste ancora una volta allo Stato? Lo dico perché naturalmente io sono sempre stato contrario, però magari qualcuno di voi è ancora di questa idea. Fatecelo sapere, chiamateci, date le vostre impressioni. Vi do solo due aggiornamenti prima di presentarvi l'ospite e di dirvi le ultime su Alitalia di giornata, perché sono due aggiornamenti macro abbastanza importanti. Il primo riguarda la fiducia, il secondo i dati sul lavoro, l'aggiornamento dei dati sul mercato del lavoro. Fiducia, a dicembre 2016 la fiducia dei consumatori va su, quella delle imprese va giù, perché l'indice dei consumatori, dice l'Istat, sale da 108,1 a 111,1, quindi sono progressi, ed è un progresso che si diffonde in tutte le componenti della fiducia. Quindi torniamo alla fiducia, che recupera il livello del luglio 2016. Invece per le imprese si scende da 101,4 a 103. Qui varia un po' di settore in settore, perché va peggio nei servizi e nelle costruzioni, va un po' meglio nella manifattura e nel commercio al dettaglio, però insomma sulle imprese l'effetto politico del referendum e del governo cambiato pesa evidentemente sulla fiducia e sulle aspettative, per così dire. E invece per il lavoro si confermano con i dati di oggi, oggi che è una data storica per le rilevazioni del mercato del lavoro, perché la prima volta, lo abbiamo chiesto per anni, vi ricordate quante volte anch'io l'ho chiesto quando facevo trasmissioni sui dati divergenti che venivano da troppe rilevazioni pubbliche? Ecco, oggi per la prima volta abbiamo un comunicato trimestrale relativo al terzo trimestre che viene emanato insieme dal Ministero del Lavoro, dall'Istat, dall'INPS e dall'INAIL. Deo gratias, piccolo passo avanti, fondamentale però nella rilevazione dei dati del mercato del lavoro italiano. Pessimo dato per i giovani, pessimo, perché gli occupati sotto i 35 anni calano sia su base congiunturale, cioè rispetto al trimestre precedente, meno 1,1%, sia su base tendenziale, meno 0,6%. Cala anche il tasso di occupazione per gli under 35, cala rispetto al trimestre precedente dello 0,3%, cioè sono 55.000 posti di lavoro in meno per i più giovani sotto i 35 anni. Invece va meglio per i 35-49 anni, con un modestissimo aumento del tasso di occupazione più 0,1%. Come sempre va molto meglio invece per gli over 50, cioè il bilancio che noi abbiamo alle spalle in questi anni post Jobs Act rimane fondamentalmente questo: giovani meno occupati, over 50 più occupati, e con una frenata dell'aumento, effetto della decontribuzione ormai finita, per l'accensione di nuovi contratti a tempo indeterminato. No, non si chiamano più così, sono tutele crescenti, che è un'altra cosa. E quindi c'è di che riflettere per il nuovo governo e per tutti voi. Ma andiamo all'Italia. Allora, le nuove, cioè gli ultimi sviluppi, quelli relativi a ieri, nell'incontro che c'è stato tra la compagnia e i sindacati, non sono stati molto positivi. La compagnia anche oggi ha smentito i gossip che sono girati sui giornali sulla possibile uscita dell'amministratore delegato, l'australiano Cramer Bell, e del vicepresidente James Hogan. E ieri che cosa ha chiesto i sindacati? Sapete che c'è una richiesta di riduzione dei costi del lavoro, ma il nuovo piano industriale non c'è ancora, e quindi non si conoscono ancora, i numeri relativi all'entità degli esuberi. L'azienda ha detto ieri che presenterà questi numeri tra due settimane. Nel frattempo aveva sondato la disponibilità da parte dei sindacati a un congelamento temporaneo per gennaio e febbraio degli scatti di anzianità a gennaio e febbraio, a decorrere dall'inizio dell'anno. E questa misura avrebbe riguardato solo una parte del personale di volo, cioè del totale degli oltre 5.000 tra piloti e assistenti, solo quelli con più di 24 anni di anzianità. Però sarebbe stata una misura contenuta, stiamo parlando di un risparmio di 3-4 milioni di euro l'anno. I sindacati hanno detto niente, non se ne parla, perché ci date prima un quadro completo, e altrimenti senza quadro completo non c'è alcuna concessione. Vogliamo ragionare sul quadro degli esuberi, come intendete affrontarlo, e così via. Sullo sfondo ci sono l'andamento delle perdite all'Italia post 2008, prima, diciamo così, cordata italiana fortemente sussidiata dallo Stato, cioè da noi contribuenti, e negli ultimi anni con Etihad, che hanno fondamentalmente deluso ogni aspettativa di una compagnia che diceva di voler tornare a lungo raggio, eccetera, eccetera, eccetera. Per carità, sullo sfondo, sempre un errore gravissimo ignorarlo, c'è l'andamento, il consolidamento del mercato del trasporto aereo a livello mondiale, ed è rispetto a questo che è difficile scalare con una flotta come quella all'Italia la montagna, che è diventata più impervia ovviamente negli anni nel post 2008, nel post 2011 e così via. Per ragionare quindi sui problemi che derivano dalla crisi del modello all'Italia post 2008 e che cosa si può immaginare, ho chiamato qui come ospite in trasmissione un esperto di trasporti e di trasporto aereo in particolare, di cui spesso ci avvaliamo. Non nascondo che la penso come lui, perché anche lui lavora come ricercatore per l'Istituto Bruno Leoni, però è a differenza di me un esperto vero, perché si è già dalla laurea laureato in economia del trasporto aereo, e di questo e su questo che sempre mi cocca l'università in cui si è formato come ricercatore, poi ha tenuto corsi e dà una mano a corsi, ed è su questo oltretutto che dal punto di vista internazionale si è specializzato in università che vanno da quelle della China Academy of Railway Science, quindi stiamo parlando di economia del trasporto ferroviario, ad altre università anche negli Stati Uniti. Andrea Giuricin, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi. Allora, possiamo ricapitolare intanto ai nostri ascoltatori quanti soldi ha perso l'Alitalia privata italiana e poi Etihad dal 2009 a oggi? Beh, il conto è relativamente facile, nel senso, si è calcolato che la compagnia ha perso circa 2,6 miliardi di euro dal 2009 ad oggi, senza tenere in considerazione che c'è stata anche una posta straordinaria nel 2014 di circa 200 milioni, quindi in totale quasi 3 miliardi di euro, 2 miliardi e 8. Queste sono le perdite, diciamo, private, senza tenere in considerazione le perdite pubbliche che si sono accumulate nel corso degli anni per le varie misure attuate dai diversi e quanto governi. Ci ha messo il contribuente dal 2008 a oggi? Noi abbiamo fatto, dal 2008 ad oggi abbiamo fatto un calcolo proprio per l'Istituto Bruno Leoni e abbiamo calcolato circa 6 miliardi di euro, perché bisogna tenere in considerazione il costo del fallimento del 2008, quindi la famosa ripartenza della Fenice, più ad esempio la cassa integrazione speciale, che è costata tantissimo, e oltretutto anche i minori introiti per una compagnia che è effettivamente molto più piccola di quella che poteva sembrare nel 2008 o quella che doveva essere nel 2008, quando doveva arrivare Air France, la famosa scalata di Air France. Io ricordo naturalmente che il regime di cassa integrazione particolare adottato al momento del 2008 da governo Berlusconi e poi l'intervento di Intesa nella vicenda del 2008 fu molto pesante, quello dello Passera e così via, e naturalmente un regime di cassa integrazione che i lavoratori ordinari italiani si sognano. Quindi sono circa 6 miliardi di costo pubblico nel post 2008 e poi i miliardi di euro persi. Ma quanto perde ancora più o meno al giorno l'Italia di Etihad? Più o meno 1 milione di euro, cioè si parla quest'anno di 400 milioni di euro di perdite, quindi la compagnia è estremamente in difficoltà e proprio per questa ragione ha finito i soldi, ha finito le risorse e per questa ragione ha bisogno di ricapitalizzare e le banche hanno trovato questa soluzione di prestito ponte che sì e no potrà servire per passare l'inverno, per arrivare a marzo probabilmente. Però Etihad non può crescere nel capitale di Alitalia. Esattamente, per i famosi limiti che giustamente ricordavi tu, Oscar, è proprio questo il punto, cioè non può superare il 49%, altrimenti perderebbe la licenza comunitaria, quindi non potrebbe più volare liberamente dentro l'Unione Europea, dentro che è il principale mercato. Quindi Etihad può mettere altri soldi solamente se i soci italiani, i famosi capitani coraggiosi, che ormai sono solamente le banche estremamente coraggiose in questo momento di mettere altri soldi nell'Italia, solamente se loro mettono anche loro i soldi, altrimenti non si va da nessuna parte. E quindi deve essere rispettato l'aumento di capitale, le proporzioni attuali dell'azionariato, quindi con gli italiani in lievissima maggioranza. Ma che cosa è avvenuto? Perché dopo i primi 3 anni in cui il contenimento delle perdite sembrava molto significativo, cioè siamo passati da meno 327 milioni persi nel 2009 a meno 69 milioni persi nel 2011, per tornare poi a disastri assoluti, meno 568 milioni nel 2013, meno 580 nel 2014, saranno meno 400 in questo 2016. Perché? Esatto, cioè le perdite contenute nei primi anni purtroppo si sono trasformate in un bagno di sangue negli anni successivi. Questo bagno di sangue dipende principalmente dall'andamento del mercato aereo, cioè l'Italia è una terra sempre più importante per le low cost, tanto che la prima compagnia in Italia è ormai Ryanair, che trasporta circa 30 milioni di passeggeri contro i 22 milioni che ha trasportato all'Italia tipo nel 2015. Quindi di fatto la compagnia ha una competizione sempre più forte nel corto raggio, quindi dove ci sono le low cost, e nel lungo raggio dove sono cresciuti i grandi vettori medio orientali, ma anche un po' tutte le altre compagnie. All'Italia continua a rimanere una piccola compagnia regionale che si deve confrontare con degli attori che sono sempre più grossi, sempre più globali e sempre più forti. Ma questo limite che ha esposto in maniera così feroce i margini, i risultati di Alitalia rispetto ai low cost, dipende e dipeso fondamentalmente dalle tipologie di costituzione iniziale della flotta A, B, oppure dal fatto che era sopravvalutato, visto che chi ha fatto il piano conosceva i numeri e le tipologie di aeromobili della flotta di Alitalia, degli italiani prima e poi di Alitalia e Etihad, o di chi, pur in presenza di questi numeri, ha sopravvalutato il modello che era quello di agganciarsi e quindi di nutrire le rotte verso il Medio Oriente, verso l'Asia, di Etihad e così via. L'errore è stato sicuramente strategico nella predisposizione della flotta. Io mi ricordo che nel 2008-2009 criticavamo io e il professor Ugo Arrigo proprio questo punto, cioè andare a puntare sul corto medio raggio, perché dovevano prendere gli aerei di Air One, i famosi aerei di Air One, che erano a 320, cioè aerei piccoli per il corto medio raggio, e puntare su quelli era una scelta totalmente miope. Noi avevamo avvisato, la scelta del management è stata quella ed è stata evidentemente un errore enorme. Il problema è che puntare ad oggi sul lungo raggio, come dicono di voler fare con il taglio dei costi, molto probabilmente è troppo tardi. Perché? Perché un anno e mezzo fa sul corto medio raggio, su Fiumicino, che è l'hub principale di Alitalia, sono entrate appunto le low cost, Ryanair, EasyJet, Vueling, che di fatto distruggono la hub and spoke di Alitalia su Roma e Fiumicino. Quindi anche il lungo raggio avrà dei load factor troppo bassi e perderà soldi anche sul lungo raggio. Quindi Alitalia di fatto è, dal mio punto di vista, mezza morta. Andrea, tu sai che alcuni, quando sentono dire «Ah, come? Allora è questo il fattore!» Chi gestisce l'aeroporto di Fiumicino ha, pensando a fare i soldi, ha tirato le low cost, ed è questo che impedisce il vettore nazionale. E cosa si risponde a chi obietta con questa cosa così radicale, ricordandoci che noi stiamo pagando da decenni i guai dell'Alitalia, prima pubblica e privata, vengono in buona sostanza non solo da quello, ma oltre che gli sprechi, la flotta, quello che volete, ma abbiamo pagato un prezzo terrificante all'idea che prima di fare come Malpensa un secondo hub, poi di fronte al fatto che non decollava e non funzionava, l'idea di metterci a dosare con la regolazione cosa poteva andare a partire da Linate e che cosa invece andava distribuito su Malpensa, tutte cose fatte col bilancino della politica che si sono infrante contro un muro. Ma pensiamo a questa obiezione: se hai appena finito di dire che il morso delle low cost ad Alitalia è stato molto potenziato dalla decisione del 2015 di ADR, la società che gestisce lo scalo di Fiumicino, vuol dire che quella decisione è sbagliata, diranno alcuni. Bisogna vedere i risultati poi per Fiumicino e per il mercato aereo italiano. Se il mercato italiano continua a crescere così come sta crescendo nonostante l'Italia, mi ricordo sempre che prima della liberalizzazione il mercato italiano era di 53 milioni di passeggeri, adesso siamo oltre 125-130 milioni di passeggeri, quindi è un mercato più che raddoppiato. Poco importa che sia l'Italia o qualche altro operatore, dal mio punto di vista di consumatore che voglio muovermi in giro per il mondo o in giro per l'Europa con i vettori, qualunque vettore esso sia, a buon prezzo. Quindi giustamente ADR fa la sua strategia, non deve essere la politica che decide quale operatore deve operare su un aeroporto o quale compagnia deve operare su quell'aeroporto. Anche perché quando l'ha deciso lei, gestendo direttamente una compagnia, ci ha regalato alle spalle dei contribuenti decine di miliardi di euro che abbiamo dovuto pagare. Noi non dimentichiamocelo mai, per favore, che ha fallito lo Stato in tante cose, ma anche come gestore di una compagnia aerea. Allora, tu hai detto prima, la vedo male comunque all'Italia, ripartiamo di qua dopo un minuto di traffico, questa volta sulle strade. La versione di Oscar. Allora, stiamo parlando di Alitalia e con noi l'esperto di traffico aereo Andrea Giuricin. La vede male comunque, ma vi ha riepilogato alcune delle ragioni per cui nel post 2008, prima con gli italiani, poi italiani Etihad, comunque si continua a perdere una barca di soldi. Alcuni dei vostri messaggi: io volo Lufthansa, Alitalia era e resta pessima, ma c'è anche chi la pensa diversamente e dice no, io volo Alitalia più che possibile da Bologna, per esempio, va bene. Massimo ci dice: a Monaco hanno creato un'area dell'aeroporto italiano dove sono concentrate le tratte dal nostro paese per recuperare i passeggeri lunghe tratte, però è troppo tardi e Alitalia sconta un ritardo strategico sul lungo raggio. Alcuni ricordano gli errori nella cessione delle prelazioni dei velivoli lungo raggio quando era ancora pubblica negli anni 90. C'è chi si preoccupa del fatto che come consumatore va benissimo, ha ragione Giuricin, però come Stato e quindi comunità le tasse vanno all'estero con le low cost. Quindi un ventaglio di opinioni le più varie e diverse. Alcuni di voi sono convinti ancora che gli stipendi in Italia siano abnormi rispetto al mercato del lavoro, sì, ma meno di prima, deve la verità, sì, ma meno di prima, e comunque restano elevati. Adesso naturalmente il personale di volo mi sparerà per quello che ho detto, ma se andate a vedere il resto del mercato del lavoro italiano è un po' è vero. Alcuni altri sollevano il tema dei sussidi agli enti locali per attirare le low cost, perché a Ryanair si possono dare paccate di soldi da parte degli enti locali per fare andare meglio la gestione degli aeroporti e all'Italia non fare lo stesso. La mia opinione è che sono sbagliate entrambe le cose, non è che un errore agevola un altro, ma comunque questa resta la mia opinione. Sentiamo rapidissimamente anche qualche telefonata e poi diamo ad Andrea Giuricin la facoltà di rispondere a tutto questo mazzo di interrogativi. Ugo da Roma, prego Ugo. Buonasera signor Giannino. Sì. Senta, io volevo dire, quando Berlusconi ha formato questa cordata italiana per salvare l'Italia, sparisce il titolo all'Italia dalla borsa e io ci rimetto ben 16 milioni di lire. Ah. E quindi la cordata praticamente è stata pagata come al solito dai contribuenti. E detto questo, da allora sto ancora pagando la custodia titoli, perché non essendo fallita l'Alitalia, mi obbligano a tenere la custodia titoli anche se non ho più nessun titolo. Quindi oltre i 16 milioni persi, oltre il danno, la beffa. La beffa che la non beffa. Posso chiudere la custodia titoli. Beh, direi che Ugo non ha proprio buoni motivi per essere fiducioso con questo bel danno. E non è stato Ugo ovviamente il solo a incamerare un danno di queste proporzioni. Posso solo dirgli che naturalmente considero il regime di permanenza della custodia titoli una oscenità. Di questo naturalmente non è neanche la più grave, ma sono tutte gravi e intollerabili quelle che avvengono nel nostro paese a danno di chi ha investito e risparmiato, e non solo loro ovviamente. Emanuele da Torino, prego. Buonasera, io sono 15 anni che volo da Torino verso la Polonia, Varsavia, sì, precisamente. Ho fatto tutte le tipologie, ho iniziato con le low cost volo diretto, sono passato a Lufthansa e negli ultimi 3 anni sono costretto a scegliere tra virgolette l'Italia, perché le tariffe sono quasi del 20% inferiori a tutte le altre compagnie. Ma low cost comprese? Maniera. Le low cost su questa tratta non mi fido, ecco, perché per problemi di viaggio con la famiglia, quindi problemi di bagagli, non ho sempre la certezza del volo e quindi preferisco una compagnia tra virgolette. Però se posso dire, no, ho capito, però insomma, senza entusiasmo l'ha detto, però ci ha spiegato come qualmente. Allora Andrea, vediamo di rispondere a qualcuna di queste obiezioni. Beh, innanzitutto sulla fregatura di lungo periodo, purtroppo in tantissimi hanno perso con l'Italia, dai contribuenti, i famosi azionisti, ma anche tutti i piccoli creditori di Alitalia che ancora aspettano di riprendere soldi dal fallimento, e dubito che ne riprenderanno tanti, quindi purtroppo l'Italia ha bruciato tante persone, fra virgolette. Da un altro punto di vista, per quanto riguarda gli aeroporti regionali, c'è un errore degli aeroporti regionali che sono gestiti dalla politica e a mio parere dovrebbero essere privatizzati. Detto anche questo, però, Ryanair ha cambiato il proprio modello di business, questo è da ricordare. Ryanair sempre di più utilizza aeroporti principali, cioè a Bruxelles utilizza Zaventem, a Roma Fiumicino, a Barcellona chiaramente l'aeroporto di Barcellona, ma ha cambiato proprio il modello di business, quindi bisogna ricordare anche questo. Esattamente, ma andiamo al punto. Se la vedi male, perché tu hai formulato una tua opinione precisa, condivisa da alcuni addetti del settore, ci sarebbe una soluzione, Air Berlino? La soluzione è molto stretta, secondo me, e va nella direzione di Air Berlino in due significati diversi. Uno può essere proprio una fusione con Air Berlino. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Air Berlino è comunque Etihad dal punto di vista del controllo. È andata male, diciamoci le cose come stanno, e quindi sono stati costretti a intervenire anche lì. Ricorda tu come? Esattamente, proprio a settembre c'è stato un piano di riduzione fortissimo di Air Berlin, taglio del personale in quel caso, e alleanza fra virgolette con TUI, che è un gruppo del turismo, e anche con Lufthansa, cioè Etihad si è molto avvicinata a Lufthansa. Proprio per questa ragione, a mio parere, l'intervento di Lufthansa anche nell'Italia è una cosa abbastanza probabile, se non possibile. Cioè, quindi tu dici Etihad potrebbe associare sotto il proprio controllo, in realtà sia pure in due forme diverse, l'Alitalia che continua a perdere e che non ha armi ottimali per smettere di perdere, andare domani o in pochi mesi sul lungo raggio, associarla a una soluzione analoga o congiunta a quella di Air Berlin e avvicinarla a Lufthansa? Esattamente, cioè non a caso negli ultimi periodi si parla molto di Lufthansa, cioè quello che immagino io è che Alitalia possa diventare una compagnia regionale dentro Lufthansa, potrebbe essere una soluzione, non per questo poi verrà trovata dagli azionisti, è scelta sempre degli azionisti, però può essere una soluzione come è successo per Austrian Airlines, per Swiss Air, per SN Bruxelles, quindi per tante compagnie in realtà in Europa. Tu lo sai che si scontra con l'obiezione, ma come, abbiamo bisogno di un vettore nazionale? Dove sta scritto che abbiamo bisogno di un vettore nazionale? No, io ho bisogno di voli per muovermi dall'Italia verso il mondo, non ho bisogno di un vettore nazionale, secondo me, cioè la scelta deve essere proprio quella, a mio parere, cioè basta con questa italianità che ha portato tanti soldi dei contribuenti per nulla, ma andiamo verso avere un buon collegamento verso il mondo per gli italiani. Allora, io mi auguro, io la penso come te, credo che siamo minoritari, però abbiamo provato a dire la nostra, vedremo gli dettagli del piano industriale degli esuberi e saranno nuove lacrime e sangue, secondo me. Comunque, continuate su Radio 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:20 con Attenti a noi due.